State ascoltando un programma offerto da e con Chiedo asilo. K, stasera è un venerdì speciale. No, intanto stasera è, cioè già adesso, no, anche è venerdì. Ma come, già fai il Mardi Gras adesso, rimane anche il venerdì. Io pensavo che Mardi Gras sostituisse il martedì, il venerdì. Cosa sto dicendo? Non lo so, non ho detto una cosa giusta, dirne due, tutte e due sbagliate. Però vabbè, ma è venerdì. È venerdì speciale, perché insomma è storico questo venerdì. Perché oggi, venerdì 14 settembre 2012, alle 22:30, quindi fra poche ore, in Piazza Grande a Modena, al Festival Filosofia 2012, un festival che si occupa appunto di filosofia, fa il suo esordio nella Serie A filosofica Fabio Volo, anzi Fabio Volo, che discuterà il tema Qualcosa di più dalla vita con Beppe Cottafavi. Capito? Sarà Cottafavi il filosofo tra i due, ecco, no, lo pensavo anch'io, lo speravo, però poi Wikipedia mi ha svelato la triste realtà. Beppe Cottafavi è un editore, non un filosofo. Un editore. Ma sì, è uno che aveva fondato, diretto Comics, che era una rivista di fumetti degli anni 90, poi ha contribuito a successi editoriali di un certo livello, come Va dove ti porta il clito di Daniele Luttazzi, il libro delle barzellette di Francesco Totti e il romanzo da cui è stato tratto il film Notte prima degli esami. Resta da dire a suo favore che 30 anni fa, quando era forse ancora uno studente, ha pubblicato su Versus, rivista di studi semiotici diretta da Umberto Eco, il saggio Micro procès temporel dans le premier chapitre de Sylvie de Gérard de Nerval. Sì, ma controbilanciare Gérard de Nerval arrivano programmi firmati con la Rai, con Ambra Angiolini, Asia Argento e Claudia Cole. Quindi insomma, ma Claudia Cole ha mai fatto programmi TV? Se li ha fatti prima di farsi suore, soprattutto li ha fatti con Cottafavi. Quindi stasera coloro che hanno il biglietto per andare a Modena a godersi un po' di filosofia si beccano Fabio Volo e Beppe Cottafavi. Esatto. E Fabio Volo ci tiene a dire che va lì gratis. Vabbè, ai festival se vai come ospite mica ti pagano, no? Appunto, lui ci tiene a farlo sapere. C'è scritto sulla comunicazione, c'è pure scritto che dedica la serata ai terremotati dell'Emilia. Saranno tutti molto contenti. Certo, casa crollata, che te frega. Stasera Fabio Volo ti dedica Qualcosa di più dalla vita. Sottotitolo chilometrico, lo vogliamo leggere? No, racconti, però, riflessioni, fantasticazioni libere attorno alle questioni dell'essere e dell'avere, della povertà e della ricchezza, del corpo e del cuore. Insomma, sul senso delle cose. Ci sono due topi morti, un gatto spappolato, un porco senza denti, un rinoceronte senza corna, solo che non si vede, due polli arrosto. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Oh, bambino Alberto, approfittiamo di questa ricreazione per fare il punto sui compiti delle vacanze. Cioè, so che quest'anno approfittiamo della ricreazione per fare il punto. Approfittiamone per giocare. Perché lui doveva fare un diario, prendere il diario di tutti i suoi giorni trascorsi in vacanza. Poi alla fine Alberto, tu dovevi farlo. Figurati se l'ha fatto. Diario, non l'hai fatto. Ma forse un diario. Non l'ha fatto. Lo state dicendo. Il diario che dovevi fare, l'hai fatto? Voi parlate di quel diario. E di quale? E come no? È certo che l'ho scritto. Ogni santo giorno mi sono messo lì a dire faccio questo, faccio quest'altro, bla bla bla. Non sei molto convincente. Anzi, noi puoi anche dire se non l'hai tenuto, siamo mica tuoi insegnanti. E vorrei anche vedere. Comunque io il diario ce l'ho, quindi. Allora scusa, leggici qualche pagina, no? Adesso va di moda in radio, ognuno scrive, legge le sue cose, si riempiono palinsesti di storie inutili. Così, insomma, raccontaci un po' come se vivessimo noi con te le tue vacanze. Vabbè. Mi prendete quasi, cioè, vabbè, dai. Allora. Facciamo così, facciamo il primo giorno. Sì, sì. Allora, primo luglio. Sì. Allora, oggi mi sono svegliato, ho fatto colazione, sono andato in piscina, ho mangiato due bomboloni. Cosa sono i bomboloni? I bomboloni, drago, i Kraffen, cosa vuoi che siano? Appunto, i Kraffen, cioè, i Kraftwerk, dai. E poi subito il bagno, no? Il bagno, ma non si può fare il bagno subito dopo aver mangiato i Kraftwerk, cioè i Kraffen, rischi di stare male. Mi lasci finire il diario? Allora, la giornata è lunga, no? Siamo arrivati solo la mattina, allora vai avanti. Dicevo, bagno. Poi, avendo mangiato due bomboloni giganti, ho avuto una congestione. e mi hanno portato al pronto soccorso. Ecco, vedi che lo dicevo. Vabbè, comunque è una storia. Quindi, pronto soccorso, mi hanno rimesso in piedi e alle 2 sono tornato in piscina. Ma come, di nuovo in piscina? E hai fatto un altro bagno? No, non subito. Ero praticamente digiuno, no? Quindi ho mangiato una caravella, no? Una caramella? Una caravella. Una caravella. Un panino a forma di barca, no? Cos'è? Ripieno, ripieno a piacere, no? La caravella. La caravella. Ma voi dove vivete? Non l'ho mai visto. Ma cosa fa? Si svuota della mollica e poi si mettono le cose dentro. Come Quindi funziona? Adesso non sto qua a spiegarvi. È un diario, non è mica un romanzo. Hai ragione. Allora, è sintetizzato. Quindi, caravella, quindi sonnellino automatico. Sì. Perché praticamente è un svenimento, fa parte del fatto della mangiare, tu mangi la caramella e svieni, no? Sì, che è stato a pronto soccorso. È come il panino di Elvis, sai, quello con lo scoiattolo. Quello con lo scoiattolo. Poi al risveglio dal sonnellino, bagno nella vasca dei piccoli. Visto che mi sentivo leggermente costipato, non volevo rischiare l'annegamento. Sei andato anche in quella dove c'è l'acqua calda, no? Sì, un po' tiepida. Bene. Bravo, coscienzioso, bravo, hai imparato la lezione. No, è che poi dopo non volevo perdermi il clou del giorno, no? Non volevo perdermi l'anguriata. L'anguriata. Ma cos'è l'anguriata? Alle 4, no? Arrivi a un passo dall'insolazione, quindi vai a casa, no? Sì. Sono andato a casa, che è una specie di rito, no? Dopo la piscina, cotto dal sole, cosa c'è di meglio dell'anguria? No? Infatti è fresca, di seta, una bella fetta, magari spruzzata con un po' di limone. Di limone, no, ma che fetta! Qui si tratta di una mezza anguria da 12 kg, no? Ma come? Bella fredda di frigo, no? Cioè, mezza anguria che in totale era 24 kg. No, vabbè, no, 6 kg, no, 12 kg, mezza? Mezza. Quindi mezza, 6 kg, 6 kg di anguria. Fredda di frigo. Fredda di frigo, due settimane in frigo. Ma come due settimane? Ma no, ma fa schifo, diventa tutta alcolica, flappa. Ma che flappa, voi non capite niente l'anguria. Poi 6 kg, sembra chissà che poi è tutta acqua, no? Tutto al più si fa tanta pipì. Sì. Infatti poi praticamente riprendendo il diario, no? Ho passato la notte in bianco. Sì. E perché non andi viene in bagno, no? Va bene. Capito? Quindi fine della giornata. Quindi primo luglio. Questa è prima pagina del diario. Primo luglio, primo giorno di vacanza. Vabbè, dai, bravo. A parte diciamo il contenuto, hai tenuto un diario come si deve, hai fatto il tuo dovere. Bravo, tutti i giorni un riassunto così accurato. Hai fatto. Allora adesso leggici un'altra pagina a caso. Dai. Ancora? Vai. Oh, vabbè, insomma, però. Vediamo, vado a caso, che non ho voglia di stare qua a perdere tempo. Si fai, non so, 27 luglio, allora, anzi 30 luglio, il mio compleanno, cosa hai fatto? Vabbè, 30 luglio, idem. Idem cosa? C'è scritto idem, quindi sveglia, colazione, piscina, bomboloni, bagno, pronto soccorso. Ma cosa dici? Ma tu ci stai prendendo in giro, hai scritto poi, solo il primo giorno, poi basta, adesso replichi tutte le altre. Ma non è vero, ma è colpa mia se sono abitudinario. Vabbè, abitudinario. Lo sapete anche voi. Sì, lo sappiamo. Ho capito, però non può essere andato al pronto soccorso tutti i giorni, cioè, dai, non hai scritto il diario e basta. Adesso rileggi tutte le pagine precedenti. No, allora sentite qua. Qui ero al mare con Gildo e sua mamma Milfia, no? Qui qua. La settimana di Ferragosto. E io ero con loro. Sì, ecco. Quindi qui, altro posto, altri fatti. Ecco, allora. Allora, diario, no? Diario. Praticamente. Adesso sarò più sintetico. Sveglia, colazione, spiaggia. Bomboloni. Tre bomboloni, tre. Tre, vedi che. Bagno al largo. È tutto uguale. Pronto soccorso. Vabbè, ma proprio uguale. E no, che pronto soccorso con l'ambulanza, Vabbè, qui, ritorno in spiaggia, col bus. Panino portaerei. Sai, panino portaerei? C'era la caravella. Panino è un altro. Te lo racconto un'altra volta, giro, te lo ricordi? Il panino portaerei. Tu non l'hai mangiato, capito? Insolazione. Sfiorata, no? Anguria. Notte insonne. Sì. Notte insonne. E quindi, vabbè. Cosa c'è? È tutto uguale. Ma no, c'è l'elisoccorso, no? L'elisoccorso. Vero, Gito? Elisoccorso! Hai sentito? L'elisoccorso. Che cosa? I bomboloni. Bravo, anche i bomboloni. Ma vabbè, che erano qui, erano tre. E poi lo portaerei, ma questi qui non capisco niente. Portaerei. Poi sai cos'è il portaerei? Sì, è la barca, è una barca gigante, no? Gigante. Fatta di pane? Gigante. E portaerei è ripiena di piacere. Cioè, a piacere me lo riempie come lo vuole, me lo riempio a piacere. A piacere, Gildo! No, piacere, Gildo, che ci salutiamo. Alberto! Piacere, Alberto, io, tu, Gildo. Piacere, Gildo! Amici ma distinti. A piacere. Nel senso. Piacere, Gildo! Allora, no! Aspetti un attimo, perché qui sono di velocità, cioè se mi lasci finire. Veloce! No, veloce, allora. A piacere significa quanti ne vuoi di questi? E tu dici. Gildo! No, Gildo. Quello era il piacere, allora lì già capivo che potevi confondere, qui non c'entra. Quanti ne vuoi di quelli, Gildo? Piacere! Alberto! No, Alberto sono io. Ci sei o ci fai? Sai cosa ti salva? Che tu ci sei, cioè, capito? Quindi a piacere significa. Gildo! Venerdì, non esaltarti. Il venerdì di Fabio Volo, il Festival Filosofia. Che venerdì è? Ci vado, Drago. Io faccio il mio venerdì, è il solito, no? Vale. Quello solito, quello che vai il venerdì, fai l'happy hour. Sì, poi vai a casa, ti metti sul divano. Col cane. Ma è sempre uguale. Cioè, guardi un po' di TV. No, beh, cambiano i programmi TV che guardo. A volte non guardo anche le repliche degli stessi programmi della settimana prima, perché il venerdì. Deve essere come, capito? No, ma deve essere liturgico, sì. Deve essere ripetitivo. Aiutate K a passare un bel venerdì. No, voi mandate i vostri disegni dell'happy hour, vorrei. Sì, oppure del venerdì. Vabbè, sì, dell'happy hour. Sì. Il cibo dell'happy hour. Col quale disegno e cibo. Insomma, ringrazieremo tutti quelli che hanno collaborato a fare Chiedo Asilo questa prima faticosissima settimana. Settimana che coinvolge Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Pietro Lacorte, Nadia Zammitti, new entry e penso temporary entry. Perché poi tornerà di nuovo ex. Come una ex, è una exit strategy, un po' strategy.